Mix 24, la storia. Non troveremo mai un fine per la nazione, né una nostra personale soddisfazione nel mero perseguimento del benessere economico, nell'ammassare senza fine beni terreni. Non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla base dell'indice Dow Jones, né i successi del paese sulla base del prodotto interno lordo. Il PIL comprende anche l'inquinamento dell'aria e la pubblicità delle sigarette e le ambulanze per sgombrare le nostre autostrade dalle carneficine dei fine settimana. Il PIL mette nel conto le serrature speciali per le nostre porte di casa e le prigioni per coloro che cercano di forzarle. Comprende programmi televisivi che valorizzano la violenza per vendere prodotti violenti ai nostri bambini. Cresce con la produzione di napalm, missili e testate nucleari. Si accresce con gli equipaggiamenti che la polizia usa per sedare le rivolte e non fa che aumentare quando sulle loro ceneri si ricostruiscono i bassifondi popolari. Il PIL non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro educazione o della gioia dei loro momenti di svago. Non comprende la bellezza della nostra poesia, la solidità dei valori familiari o l'intelligenza del nostro dibattere. Il PIL non misura né la nostra arguzia né il nostro coraggio, né la nostra saggezza, né la nostra conoscenza, né la nostra compassione, né la devozione al nostro paese. Misura tutto, in breve, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta. Può dirci tutto sull'America, ma non se possiamo essere orgogliosi di essere americani. Buongiorno, bentornati su Mix 24. Avete ascoltato il discorso di Bob Kennedy pronunciato davanti agli studenti dell'Università del Kansas il 18 marzo del 68, qualche mese prima di morire. L'America e il mondo lo ricordano come Bobby. Era il fratello del presidente John Kennedy ed era anche il suo migliore amico e il suo più prezioso collaboratore. 5 anni più tardi, anche lui avrebbe deciso di correre per la presidenza degli Stati Uniti. Quella che raccontiamo oggi a Mix 24 è la storia di un candidato giovane, ricco, affascinante, idealista, che è arrivato a un passo dalla Casa Bianca con la vittoria quasi scontata prima che un assassino uccidesse anche lui, quando aveva solo 42 anni. Quando il presidente John Kennedy viene ucciso a Dallas il 22 novembre del 63, Bob Kennedy ha 38 anni ed è ministro della giustizia americana. Al funerale del fratello, Bob Kennedy è consumato dai sensi di colpa. Ha condiviso con il fratello in pieno la sua strada politica. Ufficialmente deve credere all'omicida solitario, ma intanto si chiede: chi ha ucciso suo fratello e perché? Chi sono i veri nemici dei Kennedy? La malavita, J. Edgar Hoover, Fidel Castro, Jimmy Hoffa, i razzisti degli Stati del Sud. Ma forse a trasformarli in veri nemici era stato proprio Bob, con il suo lavoro al fianco del fratello. Può esserci qualche dubbio su Bridge, ma non certo su Goldblatt. Evidentemente lei è d'accordo. Jimmy Hoffa è l'uomo contro il quale Bob Kennedy ha condotto la sua prima crociata. L'avversario ideale per la sua prima grande battaglia pubblica. Pensando a quello che è un bene per i lavoratori americani, per i cittadini americani. Altrimenti non avrebbe detto non mi mettete in quella categoria. Io ho detto non voglio essere etichettato, ho detto etichettato. Voglio che sia chiaro, che sia messo agli atti, che non ho mai avuto nessuna ambizione di essere associato al comando o comunque parte del Partito Comunista Americano. Era la voce di Jimmy Hoffa. Alla fine degli anni 50, i camionisti americani appartengono al sindacato Teamsters. Molti dirigenti di questo sindacato sono legati alla malavita. E a capo del sindacato c'è Jimmy Hoffa. Per Bob Kennedy, la guerra Hoffa è solo un primo passo. Hoffa viene arrestato per corruzione, ma poi rilasciato per insufficienza di prove. Il signor Hoffa è stato arrestato questa sera verso mezzanotte. Gli sono appena stati contestati i capi di imputazione davanti al magistrato. A nome del signor Hoffa ho chiesto un'udienza immediata perché tali accuse siano formalizzate pubblicamente. Il governo, tuttavia, ha chiesto un rinvio di 2 settimane. Ma quella contro Hoffa non è una battaglia soltanto di Bob. Anche John Kennedy, quando entrambi lavoravano alla commissione anti-racket, si è esposto contro la malavita e i sindacalisti corrotti. Ascoltiamo i due fratelli in un dibattito contro Hoffa. Il signor Kennedy dovrebbe spiegare agli americani che questo disegno di legge favorisce i crumiri e rovina il sindacato. Perlomeno io la vedo così. Questo disegno di legge non favorisce i crumiri né rovina il sindacato. E a dimostrarlo è lei con la sua testimonianza. Persone del suo sindacato si sono presentate davanti a questa commissione, eppure la cosa la lascia del tutto indifferente. Per questo il disegno di legge è di importanza fondamentale. Attaccando Jimmy Hoffa, i fratelli Kennedy hanno sfidato la criminalità organizzata e da un memorandum segreto emergono le minacce alla famiglia Kennedy. Minacce contro l'ex ambasciatore Joseph Kennedy e i figli di Robert Kennedy. L'incolumità dei figli dei Kennedy è in pericolo. Kennedy è un bugiardo. La sua dichiarazione davanti alla commissione McClellan è priva di fondamento. Non ho paura di dire che Kennedy usa deliberatamente il prestigio del Senato degli Stati Uniti per arricchirsi e per farsi pubblicità. Sfrutta tutto questo per farsi un nome. Era la voce di Jimmy Hoffa. Nel 1952, spinto dal padre, Bob diventa l'eminenza grigia dietro la campagna elettorale di John per un seggio al Senato. 1956, la Convention Democratica. John è l'astro in ascesa della politica americana. Bobby resta nell'ombra, ma dietro al fratello manovra la stampa e i dirigenti più importanti del partito. Luglio del 60. Grazie al lavoro di Bobby, il candidato favorito alla Convention Democratica è John Kennedy, che la spunta sull'altro candidato, Lyndon Johnson, per 400 voti. Per garantire la sua nomination alla corsa democratica per la presidenza degli Stati Uniti, Bob, dietro le quinte, ha lottato senza esclusione di colpi, con la prepotenza e le minacce. Nonostante ciò, suo fratello John offre la vicepresidenza a Johnson, che Bob detesta, ma con questa scelta John spera di guadagnarsi i voti dei democratici bianchi del Sud. Ascoltiamo John Kennedy. Un grande ringraziamento va a mio fratello Bobby, che ha condotto e organizzato tutta la campagna per le elezioni primarie e la mia campagna per il Senato nel 1952. È stata per me la persona più importante. Mix 24, la storia. A triumphal homecoming for Senator John F. Kennedy, who is reunited with his wife Jacqueline at Hyannisport, Massachusetts. Bentornati su Mix 24. È l'8 novembre del 60, il giorno delle elezioni presidenziali. Con il loro fascino, John Kennedy e la moglie Jacqueline hanno oscurato il candidato americano Richard Nixon. Bob guida la campagna da dietro le quinte. Per lui la conquista della Casa Bianca è diventata un'ossessione. Nella tenuta dei Kennedy a Cape Cod, la famiglia è riunita in attesa e in preghiera. Nessuna vittoria elettorale nella storia americana era stata mai di così stretta misura. John Kennedy vince su Nixon con lo 0,1% di scarto. Per l'America comunque è l'inizio di un nuovo giorno. Per Bob è una vittoria, ma lui è il Kennedy che resta nell'ombra. Quando John gli offre l'incarico di ministro della giustizia, Bob in un primo momento rifiuta, vuole essere qualcosa di più della semplice spalla del fratello. A 26 anni Bob ha sposato Ethel Schakel, una cattolica devota, ricca, che si è perdutamente innamorata di lui. Come nel più puro stile Kennedy, la coppia avrà 11 figli. Bob è un marito felice. Nella vita pubblica, però, almeno fino alla morte del fratello, non ha mai potuto scegliere liberamente. E infatti sarà proprio il padre, il grande vecchio, a spingerlo di accettare l'incarico di ministro della giustizia durante la presidenza del fratello. Ascoltiamolo. Mi rendo conto dei gravi problemi e delle difficoltà che avremo nella nostra posizione. Ma io conosco questi problemi, perché ho lavorato al Ministero della Giustizia. E sono stato a capo del comitato del Senato contro il racket. Conosco i gravi problemi che abbiamo tutti noi, in quanto cittadini di questo paese. Ma penso che si possa fare molto, in questo e in altri campi. Su quell'incarico piovono le critiche. Bob, gli contestano, non ha alcuna esperienza in campo legale. Lui si difende dicendo che quello di cui ha bisogno il Dipartimento di Giustizia è un manager che sappia mettere ordine e far rispettare le leggi. Da ministro della Giustizia Bob contesta a Edgar Hoover, l'ingombrante capo dell'FBI, di spendere troppe energie per dare la caccia a pochi comunisti piuttosto che impegnarsi nella lotta contro la criminalità organizzata. Raramente il ministro lascia l'ufficio prima delle 20. A volte lui e i suoi assistenti lavorano fino a mezzanotte e anche oltre. Attualmente sono impegnati a far approvare la legge sui diritti civili, ma anche nella lotta contro la criminalità organizzata. Rigore e capacità di lavoro che arriva fino a 18 ore al giorno, ma soprattutto straordinarie doti manageriali come quelle che aveva messo al servizio della campagna elettorale del fratello, lasciano il segno nel Dipartimento di Giustizia. Ma Bob sottovaluta Hoover, che vuol frenare la precoce ascesa dei Kennedy. Hoover è troppo potente per essere messo da parte. Fin dagli anni 40 ha raccolto informazioni compromettenti sui Kennedy. Negli Stati Uniti esistono le intercettazioni telefoniche, ma a meno che il governo federale non sia in grado di provare che l'informazione ottenuta non venga realmente trasmessa ad altri, c'è molto difficile avviare un'azione giudiziaria. Il risultato è che a volte vengono fatte intercettazioni che poi non possiamo utilizzare. Questa legge, questa legislazione che abbiamo suggerito e raccomandato, darà al Ministero della Giustizia, l'organismo investigativo del governo federale, il potere di agire in presenza di intercettazioni telefoniche. Su una cosa Bob e Hoover concordano. Le intercettazioni telefoniche sono uno strumento utilissimo contro la criminalità organizzata. Tuttavia Bob vuole che a decidere tali intercettazioni sia solo il ministro della giustizia, cioè se stesso. La decisione provoca reazioni violente. Votando per i Kennedy, la malavita sperava di essersi comprata un po' di pace. Ed è ancora Jimmy Hoffa, il discusso capo del sindacato dei camionisti, ad attaccare Bob e la sua riforma esplicitamente. Se permettete che vengano fatte intercettazioni telefoniche indiscriminate e lasciate libero spazio alla fantasia di un ministro della giustizia come Bob Kennedy, ben presto in questo paese saranno messi sotto controllo centinaia di migliaia di telefoni solo per il bisogno personale di distruggere i possibili avversari. Signor Hoffa, lei accusa il ministro della giustizia di sfruttare le intercettazioni? Il ministro ha deliberatamente voluto queste udienze per cercare di far approvare quel disegno di legge sulle intercettazioni telefoniche che per 2 anni non è riuscito a far passare. Pochi mesi dopo l'arrivo di Bob a Washington al Dipartimento di Giustizia, Hoffa non è l'unico ad attaccare i Kennedy. E ancora Edgar Hoover, che ha per le mani una lettera in cui si dice che la malavita ha consacrato Bob Kennedy suo capo. La lettera denuncia anche i metodi da Gestapo usati da Bob come ministro di giustizia. Alla Casa Bianca, intanto, oltre a questa accusa, i fratelli Kennedy devono affrontare la prima seria crisi. Judith Campbell, amante di John, ma anche del gangster di Chicago, Sam Giancana. 22 marzo 1962, ore 12:15 in punto. Hoover si reca alla Casa Bianca per ricordare ai Kennedy che il loro futuro è nelle sue mani. 2 ore dopo, Bob si precipita dal fratello e cerca di convincere il presidente a lasciare la Campbell, la donna compromessa con un gangster che suo fratello sta cercando di combattere nella sua battaglia da ministro della giustizia. Kennedy pone fine alla relazione con una telefonata, ma non smetterà di correre dietro alle donne. La mattina dopo lascia Washington per recarsi a Palm Springs da un'altra donna, Marilyn Monroe. Secondo un dossier dell'FBI, Bob li avrebbe raggiunti al Carlyle Hotel a New York. Nella vita privata, ma anche in quella pubblica, Bob è tutt'altro che un santo. Sin da ragazzo ha imparato che gli uomini dei Kennedy devono sempre dar prova della loro mascolinità, con il coraggio, affrontando i rischi e con le conquiste femminili. Ma non sono né Hoover né Hoffa né le amanti di John a creare la crisi peggiore per i fratelli Kennedy. We now know that the Soviet Union, not content with Dr. Castro's oath of fealty, not content with the destruction of Cuban independence. È la crisi di Cuba. Nei primi anni della sua carriera Bob ha preso parte alla violenta campagna anticomunista del senatore McCarthy, di cui è un grande amico. Dunque per Bob Fidel Castro e il suo alleato russo Nikita Khrushchev sono nemici, nemici giurati. Not content with a challenge to the Inter-American system and to the United Nations Charter. 1961, lo sbarco alla Baia dei Porci si risolve nella morte e nella cattura di centinaia di esuli appoggiati dagli Stati Uniti. L'operazione era stata ordinata da Eisenhower, ma la responsabilità del suo fallimento ricade solo su John Kennedy. Per vendicarlo, Bob è aperto a qualunque azione. Giura di farla pagare a Castro a modo suo, secondo lo stile dei Kennedy, che prediligono interventi decisi compiuti di nascosto. Ed è Bob che fa finta di non vedere quando la CIA, per uccidere Castro, organizza un complotto con la mafia. Arriva al punto di appoggiare i piani dei servizi segreti per assassinare Castro. The United States answer to what Adlai Stevenson termed Soviet blackmail in Cuba was a quarantine of all offensive weapons being shipped from Russia to that island fortress. 15 ottobre 1962. Gli aerei spia degli Stati Uniti rilevano che i sovietici in segreto stanno installando dei missili a Cuba. Per John Kennedy è la prova più difficile della sua presidenza. Ora, più che mai, ha bisogno del fratello. John convoca immediatamente Bob alla Casa Bianca. Ed è qui che Bob dimostra un lato sconosciuto della sua personalità. Crede nei negoziati e nella persuasione più che nel conflitto e invita così il fratello a concludere un patto segreto per evitare la guerra nucleare. Per 13 giorni il mondo vive nell'incubo di una terza guerra mondiale. Bob e il fratello hanno portato il mondo sull'orlo del disastro. Penso che Robert Kennedy a quel tavolo sia stato più saggio di tutti gli altri consiglieri del presidente Kennedy. Aveva sempre una chiara visione della situazione. Penso che se oggi siamo qui e siamo vivi, lo dobbiamo più a Robert Kennedy che a tutti gli altri consiglieri del presidente Kennedy. Gli americani di colore vengono attaccati da cani poliziotto, picchiati a sangue dalle forze dell'ordine. In America la gente di colore non è ancora libera. Nel sud la segregazione razziale alimenta una rabbia crescente. Nel paese il caos. Dilagano le manifestazioni per i diritti civili. È una cupa ombra sulla presidenza Kennedy. Questa notte di esitazione, frustrazione, ostruzionismo è stata terribilmente lunga. Signore, ti chiediamo umilmente quanto durerà ancora. Quanto? Quanto? Quanto? Quanto? Quanto? Ma Bob non si arrende. Incontra i dimostranti, promette loro di risolvere la situazione. I Kennedy sono costretti ad agire prima che la questione dei diritti civili si trasformi in un'altra grave crisi. Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. Se non avete finito la scuola superiore, nei prossimi anni avrete molte difficoltà a trovare un impiego. Dovete finire le scuole superiori, impegnarvi. Allora troverete lavoro. Alabama, profondo sud, settembre 1962. James Meredith, uno studente di colore, vuole iscriversi all'università di soli bianchi. Ma il governatore dell'Alabama, George Wallace, è determinato ad impedirglielo. Ma da che parte stanno i Kennedy? Dalla parte dei democratici bianchi del sud che si oppongono all'integrazione e che però con i loro voti hanno consentito a Kennedy di andare alla Casa Bianca, oppure dalla parte dei poveri, della gente di colore e degli oppressi. Bob invita il presidente a prendere posizione davanti al paese in un discorso televisivo, pur sapendo di suscitare l'ira dei bianchi del sud. John acconsente. Mix 24. La storia. Quando gli americani vengono mandati in Vietnam o a Berlino Ovest, non vogliamo che siano soltanto bianchi. Ogni americano dovrebbe poter godere dei privilegi di un cittadino americano. indipendentemente dalla razza o dal colore della pelle. Bentornati a Mix24, era la voce del presidente Kennedy. Washington, agosto 63. Martin Luther King è a capo di una delle manifestazioni più imponenti che si sia mai svolta in città. Bob condivide la crociata di King, ma nutre delle riserve sulla sua vita privata e autorizza per questo Hoover, il capo dell'FBI, a mettere sotto controllo il telefono di King. 5 anni dopo, il presidente Lyndon Johnson si servirà di questo episodio per gettare discredito su Bob presso la comunità di colore. Intanto il presidente Kennedy lascia Washington per recarsi a Dallas. Bob non rivedrà mai più suo fratello. Il 22 novembre del 63 l'omicidio di Kennedy segna la fine di un sogno e per Bob si tratta di una tragedia doppia. Al posto di JFK ora c'è Lyndon Johnson, per il quale Bob ha maturato un crescente disprezzo. Per lui è come assistere a un colpo di Stato. Eppure Johnson sembra avere successo proprio dove i Kennedy hanno fallito. Ascoltiamolo. La legge sui diritti civili è una sfida per tutti. Dobbiamo impegnarci per cancellare nelle nostre comunità e nei nostri stati, nelle nostre case e nei nostri cuori, le ultime tracce di ingiustizia. Questo, per Bob, è il momento più difficile della sua vita. Devastato dal dolore, dai sensi di colpa, non riesce più a lavorare. Per sfuggire al dolore si reca in Europa, in Polonia. Ed è qui che si accorge che la gente è conquistata dal suo fascino. Lo vede come l'incarnazione di suo fratello. Bob torna in America convinto di potersi candidare per un seggio al Senato nel distretto di New York. Allo stesso tempo, Lyndon Johnson si candiderà per un nuovo mandato presidenziale. La battaglia non sarà facile. Chiedo il vostro aiuto e il vostro appoggio. Nel 1960 il presidente Kennedy ha chiesto il vostro aiuto e voi con tanta generosità glielo avete dato. Conduceva la sua campagna qui, era su questi gradini e parlava dei problemi che doveva affrontare questo Stato e dei problemi che dovevano affrontare gli Stati Uniti. Per lui e per il Partito Democratico, proprio come per gli americani, la grande preoccupazione era non essere stati all'altezza delle loro potenzialità e non aver affrontato quei problemi. Io mi candido per il Partito Democratico per portare avanti il programma svolto negli ultimi 3 anni e mezzo dall'amministrazione democratica sotto il presidente Kennedy. Ma appena annunciata la sua candidatura al Senato di New York, il capo dell'FBI Hoover fa uscire notizie compromettenti su una presunta relazione tra Bobby e Marilyn Monroe. Bobby si rifiuta di reagire alle insinuazioni. Il signor Capel afferma che nel suo libro si farà riferimento alla sua presunta amicizia con la defunta Marilyn Monroe. Scriverà che lei e la signora Monroe eravate intimi. Atlantic City, agosto del 64. Alla convention democratica, Johnson insiste perché Bob parli per ultimo. Teme che possa monopolizzare l'attenzione della platea. Ed ora ho il piacere e l'onore di presentare l'uomo che più di ogni altro è stato vicino al presidente Kennedy nei momenti difficili. Suo fratello Robert Kennedy. Per la convention è un momento di grande emozione. L'America sente già la nostalgia per la presidenza dei Kennedy. Mentre a confronto, quelli riservati a Lyndon Johnson appaiono pochi applausi. Durante la campagna elettorale per il Senato, alla Columbia University, a New York, Bob Kennedy risponde così alle domande degli studenti. L'ex ministro della giustizia degli Stati Uniti e candidato al Senato per New York, Robert Kennedy. Ho pensato che forse avete qualche domanda da farmi. Allora, chi vuole cominciare? Perché si è presentato come candidato a New York? Qual è il suo impegno morale per i diritti civili? Può parlare di altre questioni specifiche? Cosa farebbe in particolare se dovesse... Molti di noi si sono domandati se lei farà mai una legge. Ha reagito a queste accuse. Signor Kennedy, può rispondere? Vuole farci una dichiarazione? Ha accennato al problema della Capiamo casa. Capiamo oggi i problemi dello Stato. Sono impegnato in questa lotta da 3 anni e mezzo. Credo che oggi il grosso problema nello Stato di New York sia garantire che persone di razze e colore della pelle diversi possano convivere. Ci siamo occupati di criminalità organizzata e di diritti civili. Lo sforzo compiuto ad Harlem per i giovani è stata una mia iniziativa. Penso fosse importante, credo fosse indicativo. Non si trattava soltanto di fare un discorso su quella persona. E anche al di là di questo è una questione di sopravvivenza. Portare nuove industrie nello stato di New York, garantire posti di lavoro, il problema dell'occupazione, il problema della casa. Mi sono interessato, mi sono occupato personalmente di questi problemi. Ho partecipato alle discussioni, alla stesura della legislazione. L'esperienza nella lotta alla criminalità, nel campo dell'istruzione, nel portare la pace nel mondo. Un liberale in lotta che rappresenta New York al Senato degli Stati Uniti. Bob Kennedy! Che cosa vogliamo per gli Stati Uniti? Cosa vogliamo fare nel campo della salute? Cosa vogliamo fare nel campo dell'istruzione? Per fornire spazio sufficiente per costruire scuole, ma anche per costruire case e appartamenti. Penso che se tutti noi facciamo lo sforzo necessario, in questo paese le cose cambieranno. Penso che negli anni che verranno potremo essere guidati dalle parole di George Bernard Shaw, che una volta ha detto: alcuni vedono la realtà e si chiedono perché. Io sogno l'impossibile e mi chiedo perché no. Grazie. E la battaglia per i diritti civili a cui Bob dedicherà il resto della sua vita. È il nuovo impegno di Bob Kennedy. 3 novembre 64, Lyndon Johnson vince le elezioni. L'elettorato gli chiede grandi cambiamenti in termini di voti. La sua è stata la vittoria più schiacciante dell'epoca. Nel frattempo anche Bobby è stato eletto a New York, in gran parte per la nostalgia che gli elettori hanno di suo fratello. Bobby intende continuare il suo lavoro ridisegnando una nuova America, mentre i suoi nemici intendono continuare a distruggerlo, soprattutto il suo eterno nemico Jimmy Hoffa. Ascoltiamolo. Kennedy non è stato un buon ministro della giustizia e probabilmente sarà un senatore anche peggiore. E non voglio nemmeno pensare a quello che succederebbe se diventasse presidente degli Stati Uniti. Forse avremmo un governo fascista, primo, perché agisce sotto la spinta delle sue ambizioni, e poi perché è un moccioso viziato che pensa che tutti si debbano inchinare a lui e lasciargli dettar legge. Quando noi gli abbiamo impedito di dettar legge al sindacato dei Teamsters International, lui l'ha presa come un'offesa personale e ha cercato di distruggere il sindacato. Da quando John non c'è più, Bobby è il capo dell'intero clan dei Kennedy, del quale fanno parte Ethel, sua moglie, Jackie, John John e Caroline, i figli di John. Inizia a viaggiare, Giappone, Corea, Filippine. Vuole vedere con i propri occhi quali siano i problemi più importanti del suo tempo. E ovunque vada, invita le giovani generazioni a unirsi a lui nella lotta contro la povertà, la fame, la guerra. Bob Kennedy ora è un'altra persona. Una società libera è fondata sulla convinzione che lo Stato esiste per il bene dell'uomo e che l'uomo non è un semplice strumento dello Stato. Ma dico senza vergogna che noi, in America, vogliamo chiedere ai giovani di tutto il mondo di unirsi a noi nella lotta contro i mali che per tanto tempo hanno afflitto l'umanità. La povertà, la malattia, l'analfabetismo, l'intolleranza, l'oppressione e la guerra. Questi sono i principali nemici della nostra epoca. E io vi dico che questi nemici saranno sconfitti. Ma è soprattutto in America che è giunto il momento di un cambiamento radicale. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Nell'America degli anni 60 i ghetti americani sono in fiamme a Los Angeles, a Detroit, in tutto il paese. Alcune città sembrano zone di guerra e per i soldati è sempre più difficile mantenere l'ordine. In un suo viaggio in Mississippi, Bob vede l'orrore della miseria più nera. Hai mangiato? Non ho ancora mangiato. Non hai ancora mangiato? No. Senatore, cosa ne pensa della povertà nel più povero dei nostri stati? Io penso che spendiamo 75 miliardi di dollari in armamenti. Se pensa che negli Stati Uniti spendiamo quasi 3 miliardi per i cani, potremmo fare di più per i poveri e soprattutto per i bambini. Bob Kennedy ora è un'altra persona. Sono stato nella regione del Delta del Mississippi e ho visto che persino nel nostro paese ci sono persone come noi che muoiono di fame. Li ho incontrati nel Kentucky. Non hanno cibo. Hanno il latte per i bambini una volta al mese. Dunque, dobbiamo sapere che c'è qualcosa che non va. Dobbiamo sapere che è inaccettabile. E anche che possiamo fare qualcosa. Ma a segnare la svolta nel suo destino politico è il Vietnam. Nel 62 Bobby ha appoggiato l'intervento del fratello, ma non è mai stato favorevole a una guerra vera e propria. Il Vietnam doveva essere solo un banco di prova per la repressione della rivoluzione. The Eastern world, it is exploding, violence flaring, bullets loading. Nel 1965 però quella dell'amministrazione Johnson è una guerra a tutti gli effetti. Bobby ne è turbato ma ha timore a criticare pubblicamente Johnson. Dopotutto il Vietnam è anche un'eredità di John. Sentiamo il presidente Johnson in un documento dell'epoca. La determinazione di tutti gli americani sarà raddoppiata da questa aggressione. È una grande responsabilità dover ordinare un'azione militare, anche limitata, da parte di forze nel loro insieme potenti ed imponenti, come quelle degli Stati Uniti. Intanto la leva obbligatoria chiama alle armi decine di migliaia di americani di colore del proletariato, spedite a morire nelle paludi. E Johnson intensifica la sua guerra ordinando massicci bombardamenti aerei sul Vietnam del Nord. Bobby non è d'accordo con le tattiche di Johnson. Secondo lui, i bombardamenti a tappeto contro i civili non indurranno mai i comunisti a sedersi al tavolo della pace. Per quanto mi riguarda, sono contrario a riprendere i bombardamenti. Voglio prima essere convinto che ciò sia assolutamente necessario o che sia nell'interesse nazionale. Il Vietnam ora non è più la tragica eredità di John Kennedy, è la tragedia di Lyndon Johnson. Bobby vola in Francia per discutere le possibilità di pace con il presidente Charles de Gaulle. Indubbiamente la Francia e il generale de Gaulle avranno un ruolo importante per portare al successo gli sforzi che vengono fatti per trovare una soluzione pacifica al conflitto del Vietnam. Se ciò non viene riconosciuto dai negoziatori a Washington, saremo in una situazione più difficile di quanto immaginavo. Grazie. Lyndon Johnson è furioso. Il presidente ritiene che sia ancora possibile vincere la guerra. Johnson convoca Bobby alla Casa Bianca. Nel giro di 6 mesi distruggerò lei e tutti i suoi amici, minaccia. Lei, aggiunge, sarà politicamente morto. Ascoltiamo Bobby intervistato su Johnson. Nella conferenza stampa della settimana scorsa, il presidente ha detto che la gente che critica il suo piano per il Vietnam non è ben informata. Non saprei, dovete chiederlo a lui. Ma lei pensa di essere ben informato? Credo che sia meglio chiederlo a lui. Pensa che il presidente potrebbe fare qualcosa per stroncare la sua carriera politica? Non credo gli interessi. Senatore, mi scusi. Grazie. Bobby si trova isolato politicamente, ma è determinato a sfidare Johnson e i suoi alleati. Tra i suoi vecchi nemici assetati di vendetta, qualcuno dà la notizia che è stato Bobby a ordinare le intercettazioni di Martin Luther King e di molti altri. A puntare il dito contro Bobby è sempre Hoffa. In un memorandum si legge: Bob Kennedy ha chiesto all'FBI di mettere sotto controllo il telefono di Martin Luther King. Signor Hoffa, ha detto di essere in possesso di un nastro che potrebbe danneggiare Bob Kennedy. Sia penalmente sia dal punto di vista dell'immagine che Kennedy vorrebbe accreditarsi. Dice di essere a favore dei diritti civili, ma in realtà li calpesta. E non solo i diritti civili, ma anche quelli delle persone che semplicemente osano obiettare su quello che fa. Pare sia una registrazione segreta di cui lei è riuscito a venire in possesso. Non avrebbe mai immaginato che sarebbe diventata di pubblico dominio. Per l'immagine di Bobby come paladino dei diritti civili, il colpo è durissimo. Ma Bobby riesce a sopravvivere allo scandalo e inizia una nuova crociata per porre fine alla guerra di Johnson. La politica di Johnson, infatti, in Vietnam è sempre più impopolare e sempre più americani sono d'accordo con Bobby. Nel 1961, nel 1962 e anche nel 66 e nel 67 ci hanno detto che il vento stava cambiando, che presto avremmo potuto far tornare a casa le nostre truppe, che la vittoria era vicina. Nel 1962 lo pensavo anch'io. Ma per 20 anni abbiamo sbagliato. Nella storia dei conflitti tra le nazioni non si è mai registrata una serie così lunga e costante di errori come quelli che abbiamo fatto nel Vietnam. Sempre più americani muoiono in Vietnam. Cresce la protesta e crolla la popolarità di Johnson. In California, il 10 marzo del 1968, Bobby incontra Cesar Chavez, leader degli scioperi degli immigrati che lavorano nelle fattorie. Se è in grado di mobilitare i sostenitori di Chavez, forse potrà fare ancora di più. Forse può finalmente sfidare Johnson. Siamo venuti qui in onore di Cesar Chavez. Voi siete venuti come membri del suo sindacato, in onore del vostro leader. Io sono venuto qui come cittadino americano per rendergli onore per quello che ha fatto non solo per voi, non solo per questo Stato, bensì per gli Stati Uniti d'America. E il 13 marzo del 68 Robert Kennedy annuncia la sua candidatura alla presidenza degli Stati Uniti. Oggi annuncio la mia candidatura alla presidenza degli Stati Uniti d'America. Non mi presento come candidato alla presidenza soltanto per contrastare qualcuno, bensì per proporre una politica nuova. Mi candido perché sono convinto che questo paese sia su una strada pericolosa, perché so come dobbiamo agire e sento l'obbligo morale di fare tutto quello che posso. Mi candido per cercare nuove politiche, politiche per porre fine allo spargimento di sangue nel Vietnam e nelle nostre città, politiche per abolire la disparità che c'è oggi tra bianchi e neri. Il rapporto della Commissione sull'ordine pubblico è stato ampiamente ignorato. Mi candido alla presidenza perché, tra ricchezza e povertà, io voglio stare dalla parte della speranza. Mi candido perché so bene quello che dobbiamo fare per i giovani e per i vecchi. Mi candido perché è ormai inequivocabile che noi possiamo cambiare queste politiche disastrose che creano divisioni solo cambiando gli uomini, che attualmente ne sono gli artefici. Alla fine, Johnson, sempre più impopolare e danneggiato in modo irreparabile dal Vietnam, annuncia che non si candiderà per un nuovo mandato. È il 31 marzo del 1968 e le sue dimissioni danno a Bobby una probabilità. Non è più un democratico che si presenta contro un presidente democratico. La gara ha inizio, ma poi c'è un'altra tragedia. I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racist, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. Il 4 aprile del 68 viene assassinato Martin Luther King. Bob Kennedy viene informato quando sta arrivando al ghetto di Indianapolis per un discorso. Il pubblico non è ancora al corrente dell'accaduto e sarà lo stesso Bob a informare la platea. Signore e signori, devo comunicarvi una notizia che sarà molto triste per tutti quelli che vogliono la pace nel mondo. Martin Luther King è stato assassinato questa sera a Memphis. Alle persone di colore che sono tra voi e sono tentate di nutrire odio e diffidenza nei confronti dei bianchi di fronte a una tale ingiustizia, vorrei dire che nel profondo del cuore condivido gli stessi sentimenti. Un membro della mia famiglia è stato ucciso a Dallas. È stato ucciso da un bianco. Negli Stati Uniti non abbiamo bisogno di divisioni, di odio o di violenza, bensì, secondo l'operato di Martin Luther King, di amore, di saggezza e di un senso di giustizia nei confronti di quelli che ancora soffrono, siano essi bianchi o neri. È con questo discorso che Robert Kennedy riuscirà a mobilitare il popolo nero come nessun altro leader politico bianco. Giugno 1968. Bobby e la moglie arrivano in California, uno stato in cui vincere è indispensabile. Se dovesse perdere qui, per la sua candidatura, sarebbe la fine. Che cosa è accaduto negli Stati Uniti in questi ultimi 3 anni? Ci sono state divisioni e violenza. Divisioni tra bianchi e neri, tra ricchi e poveri, tra generazioni e pareri discordi sulla guerra del Vietnam. Io intendo candidarmi per impegnarmi in questo. Grazie a tutti. Ma Bob vince. Questa volta non si è presentato come erede di John, ma come Bobby, un Kennedy che cambierà davvero l'America. Agli assistenti dice di sentirsi finalmente Bob Kennedy e non il fantasma del fratello. Poi improvvisamente, quando sta per lasciare la festa all'ambassador Ted di Los Angeles per la sua vittoria alle primarie, un giovane squilibrato, Shiran Shiran, spara all'uomo che la gente sperava divenisse il prossimo presidente degli Stati Uniti. Le ultime parole pronunciate dal senatore, rivolte alla moglie, sono: gli altri stanno tutti bene. Poi perde conoscenza e morirà due giorni dopo. È il 6 giugno 1968, a soli 42 anni. Alcuni vedono la realtà e si chiedono perché. Io sogno l'impossibile e mi chiedo perché no. L'America è di nuovo in lutto. Più di 100.000 persone di ogni età, religione, razza, classe sociale aspettano in silenzio la sua bara che percorre la ferrovia degli Stati Uniti. Nella morte è riuscito a unire l'America.